Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti, eccoci qua. Oggi parleremo di vino, ma ne parleremo in maniera particolare, forse anche sorprendente, perché di solito si parla sempre di vino di grande qualità, di grandi griffe, di grandi marchi. Oggi invece vogliamo andare a affrontare un vino particolare, quello che viene così distribuito in bricche, ben in box, sicuramente con prezzi che niente hanno a che vedere con i vini, diciamo, che sono nelle scaffalature dei vini di qualità. Vorremmo andare a scoprire questo mondo, chi consuma questo vino, soprattutto cosa c'è dentro, perché costa molto meno degli altri. È solo una questione di contenitore, cioè di differenziare tra il vetro o il brick e il bag in box, anche perché se andiamo a vedere i dati, anche se io non ho trovato dati recentissimi, però nella grande distribuzione diciamo che è una fetta abbastanza consistente, oltre il 30%, quindi sicuramente è molto ma molto importante. Allora vorrei che intervenisse anche chi lo acquista o chi non lo vuole acquistare dal pubblico. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, cominciamo diciamo questo giro con una serie di ospiti, oltre, come ho detto, attendo anche i radioascoltatori, con Angelo Peretti. Angelo Peretti è un giornalista, un blog, e si occupa, anzi è un dirigente del Consorzio di Tutela del Bardolino e anche un critico perché sicuramente spesso fa degustazione e quindi scrive poi delle degustazioni. Allora io voglio proprio cominciare con lui, voglio chiedere a Peretti come si pone appunto un esperto di vino, un degustatore, di fronte al vino in brick e in bag in box. Buongiorno Davide, ma personalmente sono molto aperto alle novità in termini di confezione del vino. Personalmente cerco sempre la freschezza di un vino e tutto quello che mi può garantire la freschezza e la conservazione del frutto del vino mi va bene. Amo il tappo vite, devo dire apprezzo il bag in box, apprezzo meno il brick, cioè la confezione piccola, quella da supermercato. Il bag in box in genere va dai 2 ai 5 litri. E onestamente devo dire che il vino lì dentro, quando è già affinato, quando è un vino che va consumato giovane, si conserva perfettamente, non c'è rischio di ossidazione e il frutto viene conservato in maniera impeccabile. Quindi diciamo che in Italia siamo un po' refrattari a questi confezionamenti innovativi, abbiamo il culto della bottiglia col tappo in sughero, però onestamente la qualità da parte di queste forme alternative di chiusura viene garantita. Addirittura io vivo sul lago di Garda e qui c'è un grande pubblico turistico e sempre di più arrivano scandinavi. Addirittura in Scandinavia il bag in box è uno status symbol. Là c'è, non vorrei essere azzardato, pensiamo alla nostra bagna cauda. Sì. Una bagna cauda è qualcosa di conviviale, la si mette in mezzo alla tavola e tutti intingono. In Scandinavia succede la stessa cosa, nelle famiglie borghesi si acquista il bag in box, lo si mette in mezzo alla tavola, si fa il giro del bag in box attingendo e si conversa durante le serate in famiglia, con gli amici, eccetera. Veramente in Scandinavia il bag in box è visto come un oggetto di qualità per l'avvicinamento al vino. Quindi il mondo si rovescia, insomma, andando a nord. Bene, rimani con noi e ora andiamo in Sicilia. Andiamo in Sicilia da Samantha Di Laura, che è direttore commerciale Italia delle Cantine Sette Sole di Menfio, un'importante cantina che produce vini di qualità, ma produce anche vini, se non erro, ora sentiamo, in bag in box. Buongiorno, o in brick. Sentiamo Samantha Di Laura. Buongiorno a tutti. Io volevo riallacciarmi appunto a quello che ha detto, insomma, il signor Peretti sul consumo di vino nei paesi nordici in bag in box. Noi, insomma, come sapete, esportiamo nei paesi nordici parecchio bag in box e uno dei nostri mercati più importanti è per esempio la Svezia. Bene, e noi mettiamo dentro i bag in box che vanno nei paesi scandinavi la migliore qualità che abbiamo, perché tipo Cabernet Sauvignon di altissima qualità, vini Chardonnay di altissima qualità. Io all'inizio mi ero stupita di questo fatto, se devo essere sincera, però il consumatore nordico ha una percezione del vino e della qualità differente rispetto a noi italiani. Per loro è proprio importante l'essenza, la qualità del vino. Non avendo una tradizione vinicola non hanno meno attenzione rispetto alla bottiglia, cioè non stanno attenti al contenitore, stanno attenti alla sostanza. Ecco, mi dica una cosa, sì. Questa è la percezione che diciamo scandinava dei paesi del nord, conviviale, sì. Chiamiamola così. Volevo chiedere, in Italia questa percezione è completamente opposta? Ma in Italia c'è un altro problema, secondo me, dal mio punto di vista i problemi sono due. Allora, da una parte l'Italia è un paese in cui c'è una tradizione vitivinicola antichissima, localizzata, regionale, e ci sono dei riti accompagnati al vino, alla bottiglia, allo stappare la bottiglia, e tutti insieme, quindi questo è un fattore. Dall'altra parte, appunto, tutta questa tradizione, tradizionalità del consumatore italiano, rende difficile l'approccio a nuovi packaging, come possono essere il brick o il bagging box. E spesso si cerca di spingere questi contenitori sul mercato facendo leva sul prezzo, quindi rendendoli appetibili non dal punto di vista qualitativo, ma dal punto di vista del prezzo. E quindi si mettono in bagging box piuttosto che in brick, a volte vini, insomma, certo, cose così. Infatti, e quindi questo ha fatto in modo che il consumatore percepisca, certo, questi packaging come di bassa qualità, come contenenti vino di bassa qualità. Bene, fioccano già gli SMS, ma sentiamo una radioascoltatrice al telefono. Carmen da Ravenna, buongiorno. Carmel. Come Carmel in California. Ah, Carmel, ecco. Carmel, sì. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho cominciato a bere il vino un po' tardi nella mia vita. Sono irlandese di nascita, sono sposata con un italiano. Compriamo il vino locale. Sì. Buongiorno. Buongiorno, parli pure. Sì, sì. Allora, a me non mi piace per niente il vino in brick. Mi dà l'impressione del succo di frutta o qualcosa così. Bene, bene, un'impressione secondo me giusta, la recepiamo. Ricordiamo ancora chi vuole intervenire, il numero verde 800 24 00 24. Torniamo a Peretti. Angelo, volevo chiederti, tu hai mai fatto delle degustazioni di vini in bag in box? In bag in box no, non ancora, o meglio, ho assaggiato solo un vino, devo dire, importante in bag in box. È il vino che fa un produttore della Languedoc, del sud della Francia, quindi si chiama Gérard Bru. Lui ha da qualche anno l'abitudine di fare un concorso fra pittori anche illustri della Francia, e a questi pittori fa illustrare una barrique e poi riproduce questa barrique di legno su una barrique di metallo, all'interno del quale mette la sacca che contiene il vino, e confeziona questa serie di, lui la chiama Bibart, con all'interno un ottimo rosso della Languedoc. Quello l'ho assaggiato e devo dire l'ho bevuto anche con piacere. Invece ho assaggiato e degustato insieme a degli amici una serie di brick acquistati nella grande distribuzione. Devo dire che confermo quanto detto poc'anzi, cioè il salto qualitativo fra il brick che punta sugli scaffali della grande distribuzione italiana al prezzo e il bag in box, nel quale invece vengono inseriti per l'esportazione, soprattutto nel nord Europa, vini anche di altissima qualità, beh, il salto qualitativo è davvero notevole. Abissale. Non dimentichiamoci una cosa, sappiamo benissimo che il vino in massa importante, cioè sopra lo 0,75 della normale bottiglia, in genere dà il meglio di sé se conservato bene. Il bag in box è indubbiamente una spanna sopra rispetto al brick, tant'è che io personalmente mi assumo la responsabilità totale di aver fatto inserire nel nuovo disciplinare della denominazione di cui mi occupo il Bardolino, nuovo disciplinare che dovrebbe essere approvato dal Comitato Nazionale dei Vini la prossima settimana o fra pochi giorni, di aver fatto inserire proprio il bag in box, perché credo assolutamente che il bag in box sia la formula del futuro per l'esportazione, per i vini italiani di qualità, il che può sembrare quasi un assurdo detto da me che vado alla ricerca delle piccole denominazioni, le piccole produzioni, certo, i vini cosiddetti naturali, eccetera. Come dicevo, ho ricevuto moltissimi SMS, ma ne leggo uno veramente divertente. Noi usiamo spesso vino in brick con risultati a volte apprezzabili. Quando abbiamo ospiti facciamo sparire i brick e apriamo le bottiglie. Beh, credo che sia molto divertente questo. Ancora un altro, compro il brick di vino ma li uso per cuocere gli arrosti, da bere, per carità. Ma sentiamo un radioascoltatore, Federico da Roma. Buongiorno Federico. Buongiorno a lei, io sono Radio Ascoltatore e ho sentito proprio all'inizio della trasmissione quando diceva la differenza dei costi. Siccome io sono un produttore, stiamo sulla zona di Velletri e ci sono tanti altri produttori che stanno lavorando molto bene per fare un bel prodotto. Ecco, la differenza dei costi normalmente capita, perché se uno fa un prodotto, mi ascolta? Sì, la sto ascoltando, come no? Un prodotto di qualità comincia a fare una bassissima resa per ettaro delle uve, quindi quello là sulla lavorazione dei terreni incide come se uno fa la massima resa. E quindi poi per esempio sui rossi si portano a raffinamento 3 anni, 4 anni, 5 anni, anche quello ha un costo. La bottiglia in sé per sé, se uno usa una bottiglia buona, perché ci sono bottiglie da pochi centesimi e ci sono invece bottiglie che costano, ma costano perché hanno lo spessore, perché trattengono i raggi uva, perché hanno un fondo apposito per il deposito dei vini, poi c'è i tappi anche molto buoni, è tutto un insieme di cose che poi dà un prodotto di qualità che costa. Bene. Per quanto riguarda i brick e quelli lì, allora lì facciamo, se, non nel caso mio o nel caso anche di altri colleghi, se va una produzione maggiore, diciamo 300-350 quintali d'uva all'ettaro contro i 70-80 che facciamo normalmente, e chiaramente sono vini giovani, sono vini freschi, sono vini che hanno un basso, anche un bassissimo grado alcolico, e quelli vanno immediatamente venduti e bene. Quindi costano anche molto. Grazie meno. Federico, grazie Federico, viticoltore. Ecco, allora io voglio tornare velocissimamente a Samantha Di Laura. Voglio chiedere che differenziale di prezzo c'è tra un bag in box, ok, che ci vanno 3 o 5 litri, e una bottiglia di vetro. Allora, il differenziale di prezzo, io infatti ci tenevo a chiarire questo concetto, sia nel bag in box che per quanto riguarda il brick, è dato fondamentalmente dal vino. Io infatti volevo solo fare un piccolo chiarimento sul brick. Ho parlato prima in generale di vini di bassa qualità. Non significa che non ci siano vini di alta qualità contenuti in brick, che peraltro è un contenitore molto versatile, molto utile, si può richiudere, si può portare in giro. E infatti questo è uno dei motivi per cui per esempio noi Cantina Sette Soli siamo tra i primissimi sul mercato in Sicilia, ma col nostro brick non riusciamo ad andare oltre la nostra isola né a esportare nel resto dell'Europa, proprio perché abbiamo un costo alto. Il costo è dato fondamentalmente, principalmente dal valore del vino che si mette dentro, ed è un valore dovuto alla qualità, è un valore anche che poi si ripercuote sull'agricoltore e certo, sul giusto valore che viene dato alle uve. Bene, grazie. Volevo solo fare un piccolo passaggio sul bag in box. Il bag in box in Nord Europa viene proprio spinto per questo, perché costando meno rispetto al vetro, e spesso mettono una bottiglia di vetro con la stessa qualità che c'è accanto al bag in box, e sul bag in box mettono la raffigurazione delle bottiglie di vetro che rappresenta, cioè dicono: comprando un bag in box di 5 litri tu ti stai portando in realtà a casa a questo prezzo tot bottiglie di vetro, poi la differenza andrebbe calcolata insomma sul litro. Grazie Vedo. Tante, ricordo numero verde 800 24 00 24. Sì, abbiamo molti radioascoltatori, però ora ho un personaggio che rappresenta un po', diciamo, questi vini, ed è il presidente della Caviro, ovvero sia che produce Tavernello, ma credo anche San Crispino, poi anche altri prodotti. Buongiorno a Secondo Ricci. No, non è San Crispino, ma è Castellino. Castellino, bene. Allora, San Crispino invece chi lo produce? È un'altra concorrente. Comunque è sempre una cooperativa Ronco, se non erro. È sempre una cooperativa del territorio Emilia-Romagna. Bene, bene, tutto in Romagna, la mia terra. Romagna. Senta... Ricci, come mai avete deciso anche di produrre in vetro, visto i grandi successi invece che avete ottenuto con brick e bag in box? Ma noi abbiamo sempre prodotto anche in vetro. Il vetro sta crescendo come diciamo consumo, nel senso che si abbandona il bottiglione, il bottiglione da 1,5 litri, e quindi cresce perché cala il prezzo normalmente, e quindi il consumatore preferisce la bottiglia perché ha un'immagine nella tradizione del vino, un'immagine di pregio, diciamo, la bottiglia di vetro. Quindi noi abbiamo continuato a produrre come sempre. Ma io le leggo 2-3 sms. Compro i brick di vino, ma li uso solo per cuocere gli arrosti. Sì. Da bere, per carità. Questa è la battuta, come chi non vota il il Premier, no? Se lei intervista qualcuno dice che non vota il Premier, però il successo c'è. E quindi anche Tavernello è lo stesso problema. Nessuno lo compra, nessuno lo beve, no? Però il successo c'è. Beh, quindi vuol dire che. Beh, infatti ne leggo un'altra. Ho iniziato a bere Tavernello da quando sono in cassa integrazione e devo dire che non è male. Bene, questo è positivo. Bene, ma questo diciamo che rientra nella tradizione che l'Italia ha, no? Essendo un paese produttore, e quindi il vino doveva essere in bottiglia di vetro nera, no? Questa certo. È la tradizione, però direi che c'è un bel cambiamento, per fortuna o purtroppo, non lo so, ma c'è un cambiamento nei gusti, dovuto poi alla distribuzione, dovuto alla facilità di tenere i prodotti in casa, alla conservabilità di questi prodotti. Ecco. Se, rimanga con noi, sentiamo un radioascoltatore proprio da Forlì, Alain da Forlì. Buongiorno Alain. Buongiorno. Io volevo dire che la nostra esperienza qui nella nostra zona ci insegna che il nostro vino sfuso è buono nelle bottiglie, ma non nei cartoni. Parliamo del Sangiovese prevalentemente, io mi siero del Sangiovese dalla zona di Preda più alta, però è un po' in tutti, sia supermercati, sia cantine, eccetera. Quindi diciamo che questo ci sconsiglia perlomeno il nostro sapore è più verso questo vino che non verso i cartoni, insomma. Bene, grazie. Sentiamo un altro radioascoltatore da Torino, non so se leggo bene, che ho qua che mi segnalano Levrin da Torino, è giusto il nome? Sì, buongiorno, il cognome, Mauro Levrin da Torino, sì. Mi dica. Molto rapidamente, io ho sentito parlare fin dall'inizio della trasmissione, interessante trasmissione oltretutto, di packaging, di contenimento prezzi, di qualità che non cambia, ma cambia solo appunto il packaging, eccetera, eccetera. E io sono anche una persona che usufruisce di questi vini con una certa regolarità, quindi non sono contrario tout court. Però si dovrebbe anche dire che questi vini, in maniera preponderante rispetto ad altri in bottiglia di qualità superiore, contengono sempre prodotti chimici come i solfiti, che in natura il vino non mi sembra dovrebbe avere. No, guardi, sta sbagliando, nel senso che a parte sì, che i solfiti sono anche nel vetro e il vino produce una quantità di solfiti che è minima, la quale deve essere già riportata in bottiglia con diciamo quello che emette naturalmente, quindi sicuramente non credo che ci sia questa grossa differenza. Poi magari sentiremo, avremo anche un bravo enologo, rifarò questa domanda. Ma ora passiamo a un giornalista che non ha mai peli sulla lingua, passiamo a Carlo Cambi, che è responsabile di questo inserto che esce appunto al sabato oggi su Libero Gusto. Buongiorno Carlo. Ciao Davide, buongiorno a tutti i gastronauti. Visto che tu non hai peli sulla lingua, cosa ne pensi del vino in brick e in bag in box? Allora, a me non piace e trovo che sia il vino alimento, cioè quello che è ormai assimilato ai succhi di frutta, ai pop drink, e quello è un vino da consumo. Il vino, cioè quello che tu devi conservare, meditare, leggere, ascoltare, bere, necessariamente deve stare dentro le bottiglie, ma non è un problema di qualità, è proprio un problema di rapporto psicologico con quello che ci sta dentro. L'immaginario richiede la bottiglia. Se poi uno vuole bere del vino per alimentarsi, per avere comunque un rapporto con questo straordinario prodotto della terra, va bene anche il bag in box. Io sicuramente non berrò mai né un brick né un bag in box. Ricci, lei cosa ne pensa di questa, diciamo, di questa sottolineatura di Cambi? Ma io dico che per fortuna che ci sono questi contenitori alternativi che hanno permesso di portare la bevanda vino a un prezzo accettabile per tante famiglie, e che ha permesso una praticità che diversamente con le bottiglie non avremmo avuto. Bene. Quindi ha favorito in qualche modo un risparmio e una conservazione di questi prodotti in maniera ineccepibile all'interno delle famiglie. Bene, grazie. Secondo Ricci, Carlo rimane con noi. Sentiamo Franco da Grosseto. Buongiorno, radioascoltatore. Prego, buongiorno. Franco. Buongiorno. Sono in macchina, non so come riuscite a sentirmi. Sentiamo benissimo, vado avanti, che abbiamo poco tempo. Prego. Volevo dire, io vivo in una zona del Morellino, per cui è una zona dove il vino, insomma, è un buon vino. E ho scoperto una fattoria che tra l'altro produce un vino biologico, perché è una fattoria che fa esclusivamente prodotti biologici, e il proprio vino non lo imbottiglia in bottiglia di vetro, ma lo mette solo in delivery box da 5 litri. Sì. E posso dire che è buonissimo. Purtroppo gli italiani siamo abituati alla bottiglia di vetro, a tirare via il tappo e questo è un... Grazie. Grazie Franco della sua testimonianza. Sentiamo Claudia da Torino. Buongiorno Claudia. Claudia è sparita. Sentiamo Giuliano da Padova. Buongiorno Giuliano. Ciao a te, ancora complimenti per la trasmissione, interessantissima. Io peraltro ho chiamato perché mi definisco un piccolo professionista del vino. Io lavoro con il vino e sui mercati esteri da tutta la mia vita praticamente. Ed è giusto secondo me fare una distinzione ben precisa su quello che è un contesto di qualità o di non di bassa qualità, ma di vino di grandi produzioni. Il Brick lo può produrre solo un'azienda che ha un impianto di confezionamento per grandi masse, per cui sono vini assolutamente particolari nel senso che non possono competere qualitativamente con nessun altro prodotto. Questo ce lo dobbiamo dire con molta chiarezza. Io non ho nessuna richiesta da nessun mercato del mondo, dei miei clienti, di avere un vino in brick. Bene. Dalla Corea al Giappone, agli Stati Uniti, al Canada, a qualsiasi altro posto. Sicuramente molti lo consumano, sì, ma identificato come prodotto relativamente al prezzo estremamente competitivo. Ti faccio un'aggiunta, se mi consenti. Veloce. Che è peraltro la caratteristica per cui noi siamo diventati i primi venditori di vino, ma di quale qualità? Tantissimi SMS, ne voglio leggere uno, poi chiedo la risposta all'amico Cambi. Ma se do a qualcuno un bicchiere di vino e quindi scaraffa la bottiglia di nascosto, chi è in grado di distinguere se provenga da cartone o da vetro? Carlo, tu cosa ne pensi? Noi tutti. Prima di tutto perché un vino che va in brick è un vino che non può avere alta acidità. Secondo, perché un vino che va in brick è un vino sicuramente che ha subito delle minime pastorizzazioni e quindi ha perduto la capacità olfattiva prima che quella gustativa. Quindi non diciamo cose, io non ce l'ho col brick, trovo strano che una cantina che fa biologico imbottigli in brick, che è un contenitore sì, non riciclabile al 100%. Anch'io trovo strano che Ricci dica della servibilità del vino in brick, visto che abbiamo bevuto degli champagne che sono stati sott'acqua per 300 anni e ancora non risulta un tavernello che abbia passato i 6 mesi di tempo. È una sfida fra brick e vetro che non si dà in natura, nel senso che quello che va in brick è un certo tipo di vino che ha un grande mercato ed è giusto che ce l'abbia, e viva Dio che ce l'ha, è fatto in larga misura da Trebbiano, che produce a 250 quintali per ettaro. Quello che va in vetro è un altro tipo di vino, è il vino che si impone per la sua qualità, per la capacità di emozionare, per la capacità di dare gioia. Non sono mercati assolutamente contaminabili l'uno con l'altro. Si chiama tutto vino, ma non è lo stesso vino, non è la stessa fruizione, non è lo stesso rapporto, non è lo stesso. Quanto al prezzo, parliamoci chiaro, non è che una bottiglia di vino costa l'ira di Dio, costa 30-35 centesimi una bottiglia di vetro. Quindi il problema è quanto valore aggiunto c'è dentro quel vetro. È chiaro che su un Sassicaia il vetro incide niente, su un vino da consumo quotidiano, da tavolo, il vetro certo, può avere una certa certo. incidenza. È giusto che cantine sociali come la Cario, come facciano anche il brick, perché è il loro mercato, ma non vedo quale sia il problema di coesistenza tra brick e vetro. Beh. Mi stupirei di trovare delle grandi denominazioni dentro il brick, a quel punto mi viene il sospetto che non ci sia dentro la grande denominazione. Grande Carlo, grazie. E ora abbiamo con noi un importante enologo, professore universitario e un grandissimo ricercatore, che è Donato Lanati. Buongiorno Donato. Ciao Davide, ciao. Ho visto che la tua società ha fatto per il Banco Alimentare un vino da tavola rosso 5 litri in bag in box. Sì, l'anno passato l'avevamo fatto in bottiglia di vetro e quest'anno in bag in box. perché ritengo che la lotta non si debba fare al bag in box, al tetrapack, con la bottiglia di vetro, ma solo la cattiva qualità o la cattiva origine di un vino. Attorno al vino si sta rivalutando molto, o si sta mettendo in luce una nuova qualità, che è la qualità etica, che è quella che accade attorno al bicchiere, e quindi non solo la qualità gustativa organolettica, ma quello che c'è attorno, e c'è un grande rispetto dell'ambiente in questo momento. Quindi portare in giro un litro di vino con 700 grammi oppure portarlo in giro con 40 grammi e quindi tutta l'emissione di CO2 per il trasporto o per la produzione del vetro, anche praticamente questo fa pensare. Ovviamente ho avuto la fortuna di lavorare sempre per grandi aziende che hanno prodotto dei vini di pregio, però bisogna fare alcune considerazioni. E innanzitutto il grande vino, come diceva prima Carlo Gambi, San Sicaio, non andrà mai a finire in un bag in box, però c'è da dire che in Francia si tappano 5 miliardi di contenitori all'anno e ha una produzione leggermente inferiore alla nostra, noi ne tappiamo 2 miliardi e mezzo, quindi se ci fosse qualche contenitore che si fa riempire dal nostro vino col marchio italiano, forse sarebbe un pochettino meglio. Noi esportiamo vini di pregio, ma possiamo benissimo anche consumare o vendere dei vini quotidiani che possono essere in bag box oppure in tetrapack. D'altra parte, in tutti questi contenitori comunque il vino viene controllato, più che non in damigiane oppure nel vino sfuso. Il problema dei nostri 2500 contenitori non tappati da noi, ma venduti sfusi in Europa e in altre parti del mondo, non creano tutto questo valore aggiunto. Quindi io direi che queste cose bisogna tenerle in considerazione. Ovviamente il vetro pesa di più, costa, però può essere riciclabile. Il tetrapack e il bag in box sono più leggeri, permettono alle famiglie di mantenere il vino tutta la settimana senza avere contatto con l'ossigeno, quindi non si rovina, però come il riciclaggio hanno qualche cosa di maggior difficoltà. Avevo sentito, avevo appena acceso la radio perché ero in lezione, che un signore chiedeva, diceva che ci sono dei solfiti. Sì, certo. Innanzitutto un collaboratore ed io facciamo parte dell'OIVEA, che è l'Organizzazione Mondiale della Vita del Vino, che su una raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha spinto tutti i ricercatori del mondo a trovare qualche soluzione per usare meno solforosa, anidride solforosa in assoluto, e ci stiamo provando in tutte le maniere, perché ovviamente a grandi quantità dei problemi, non a piccole. Però volevo sottolineare e darti ragione sul fatto che avevi detto che i lieviti, che sono l'elemento di trasformazione del mosto in vino, producono dei solfiti e dell'anidride solforosa per tenere a bada i loro nemici, che sono i batteri. Quindi questo è un aspetto naturale. E per dire, l'arsenico si trova anche nell'aria, bisogna vedere quantitativi, percentuale, certo, certo, per farsi male. Bene, quindi volevo rassicurare quel radioascoltatore di Torino, i lieviti, proprio loro producono solforosa. Ovviamente bisogna usare il meno possibile, certo. Poi c'è un altro aspetto, prego, nel mondo del vino, che il consumatore in questo momento sta prendendo veramente maggiore posizione rispetto al passato e desidera certezze sulla sicurezza alimentare, sull'origine, sulla qualità, vuole essere preso in maggiore considerazione e cerca di capire come un vino viene fatto. Quindi il vino non può essere venduto cattivo nei bag in box o nelle bottiglie. Oggi per vendere vino, lo sappiamo noi enologi, ci deve essere qualità ovunque. Poi il vino di pregio, il vino di lusso, il vino emozionale, è quello che bevendo un bicchiere ti porta nel luogo in cui è stato prodotto, ti dà cultura, storia, è quella la nostra forza italiana, il Made in Italy è quello, la tradizione. Ci sono paesi del nuovo mondo che stanno spendendo facendo un sacco di investimenti per crearsi l'origine, la storia, cosa che noi abbiamo così a costo zero. Ecco, allora questi vini devono portare cultura, cioè, certo, per aiutare oggi un produttore a vendere all'estero bisogna esportare cultura e informazione, poi quel vino senz'altro verrà comprato. E poi tutti mica possono entrare nelle bottiglie, certo. I vini di pregio sono pochi, nascono dalle posizioni, nascono dai territori, dai terroir, da una forza della natura che non è estesa dappertutto, quindi si sono state piantate vignette in Italia anche che non danno grande qualità, quindi potrebbero entrare ovviamente con una qualità comunque accettabile, decente, piacevole, anche in contenitori alternativi. Poi chi ha detto chi ha detto, chi ha detto che il contenitore, il vino è nato nel vetro? Io ho avuto la fortuna di studiare la viticoltura in Georgia e il vino 6.000 anni avanti Cristo è nato nelle anfore. Bene, grazie Donato, splendida, con grande chiarezza. Ora ho tantissime, ti ringrazio, grazie del tuo intervento, ho tantissime telefonate, non so se riuscirò a far intervenire tutte. Claudia da Torino, buongiorno Claudia. Buongiorno, salve. Volevo chiedere, appunto, si parla di alternativa alla bottiglia di vetro. Volevo sapere, tra i giovani, la tendenza qual è nell'acquisto? Bene, lo chiederemo sicuramente poi a un esperto di grande distribuzione. Roberto da Bologna. Buongiorno, Roberto. Sì, buongiorno. Mi dica, prego. Volevo semplicemente dire questo. Io come sommelier, mi ricordo che al primo corso il divertimento più grande degli esaminatori era di mettere delle bottiglie anche di pregio, versare dentro del bag in box, chiuderla con la stagnola e poi aspettare i novelli sommelier che ritrovavano i profumi più incredibili e i colori più belli. Beh, questo si fa anche molte volte nella casa, appunto con il tavernello. Quindi con grandi risate di certo. Questi esaminatori. Grazie Roberto, sentiamo Margherita dalla provincia di Milano, buongiorno Margherita. Sì, buona giornata a voi. Io tengo per buone tutte le considerazioni che ho sentito, quindi faccio delle domande precise che mi sollecitano la mia curiosità. Sulla praticità, vedo male come un box contenente 5 litri possa essere molto pratico, è anche abbastanza pesante, dove lo metto, è ingombrante. Certo. La seconda domanda riguarda la temperatura, cioè io sono ancora molto tradizionalista, quindi sono affezionata alla bella bottiglia, alla bella etichetta, al bel tappo addirittura, quando vengono fuori quei tappi di plastica il mio pensiero è già negativo, ma al di là di quello capisco, bisogna evolvere, ma la temperatura, ogni vino, ogni tipologia di vino ha una sua temperatura, come viene regolata e può essere regolata la temperatura in questi scatoloni che già di per sé mi sembrano molto brutti? Beh, certo che c'è, bisogna tenerle in cantina come le bottiglie di vetro. Non è che ci sia molta differenza, si dice lo spazio è molto più grande e dipende appunto dallo spazio che si ha a disposizione, però chi compra i bag in box di 5 litri sicuramente ha lo spazio, altrimenti non lo comprerebbe. Poi sul discorso tra vetro e bag, cioè, ognuno sceglie, se lei ama il vetro che devo dire, continui a comprare il vetro. Gaspare da Milano, buongiorno Gaspare. Buongiorno Gaspare. Sì. Spenga la radio, se no non si sente, se no la devo bypassare. Va bene. Mi dica. Sì, allora, niente, io sono d'accordissimo con quello che ha detto l'enologo, sì, a proposito che della qualità del vino non dipende dalla bottiglia o dal brick, ma dipende fondamentalmente dall'origine, da dove viene prodotto, dal territorio e dall'autoctone che abbiamo sul territorio. Tipo la Sicilia magari produrrà un vino con una struttura diversa da quella che viene prodotto magari in Romagna, quindi nei brick viene messo un vino più qualitativo. E poi per certi versi i brick secondo me protegge ancora di più il vino, lo protegge dalla luce, ovviamente non possiamo mettere nei brick un vino da invecchiare, insomma un vino da invecchiare sicuramente nel brick o nel bag in box ha delle difficoltà, quindi chi vuole, chi ama i vini a lungo invecchiamento, vini di grande qualità, sicuramente è impossibile, qui parliamo ovviamente di vino della quotidianità. Grazie, sentiamo Francesco da Frosinone, buongiorno. Buongiorno, io sono appassionato delle vostre trasmissioni, volevo esprimere una considerazione se mi era possibile. Veloce allora, però. Ecco, allora in pratica è questo, il vino intanto è un bene non di primaria necessità ma molto antico. Allora io penso questo, se tutto il discorso fatto riguarda il vino, diciamo così, soggetto di invecchiamento, quindi allora il discorso cade. Se invece il vino è diretto esclusivamente a fini, diciamo, di consumazione, di commercio, il discorso potrebbe essere preso in considerazione. Tra l'altro vorrei fare una considerazione, vorrei dire questo, ma se a un certo momento c'è questa grossa difficoltà nel riconoscere, va bene, questi materiali alternativi come invece materiali molto buoni per quanto riguarda la conservazione del vino, allora a questo punto il consumatore non dovrebbe mangiare più formaggio a contatto con la plastica, bere più il latte in in contenitori di plastica o di carta, ma prendere il pane o la addirittura la carne non dovrebbe essere più mangiata perché è... Sì, Francesco, però attenzione, cioè ogni alimento ha delle reazioni completamente diverse, quindi il vino è un qualcosa di vivo, ci sono gli altri che sono stagionati o pastorizzati, quindi credo che ci siano delle differenze, anche se la sua osservazione può essere valida e bisogna approfondirla, però credo che queste siano le grandi differenze. Continuiamo comunque a sentire i nostri radioascoltatori che intervengono veramente in massa. Sentiamo Marco dalla provincia di Sondrio. Buongiorno Marco. Buongiorno, io sono il coordinatore di un piccolo gruppo di acquisto solidale a Milano e noi abbiamo fatto la scelta di comprare i vini nel bag in box, vini prodotti da uve biologiche, non solo perché il nostro produttore riteniamo che abbia un'alta qualità nel suo prodotto, ma anche perché riteniamo che sia una scelta etica quella di utilizzare il bag in box. Noi dopo aver consumato il nostro cartone da 5 o 10 litri, buttiamo il cartone fra la carta da riciclare, buttiamo la plastica fra la plastica da riciclare, l'unica cosa che avanza è il rubinetto che non può essere riciclato. Quindi secondo me il valore aggiunto del bag in box, bene, sempre che all'interno ci sia un prodotto di qualità, è quello della sua efficienza dal punto di vista energetico e del recupero, nei trasporti, nel confezionamento, eccetera. Grazie Marco. Ora guardiamo anche un po' all'estero, andiamo in Australia, andiamo a Sydney dal nostro Piero Tantini. Piero Tantini ultimamente appunto si è trasferito là dopo aver svolto un'attività sul vino importante in Italia, ora fa attività di consulenza, import e formazione proprio sul vino italiano in Australia. Ma da lui voglio sapere qual è, diciamo, la diffusione del brick e del bag in box nel vino australiano. Buongiorno Piero. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. La diffusione del bag in box qui è enorme, semplicemente perché l'Australia è il paese che ha inventato il bag in box. L'ha inventato nella metà degli anni 60, quindi qui siamo in una situazione totalmente antipodale. Il consumatore esperto, magari over 50, è passato necessariamente per il bag in box, ha bevuto il suo primo vino dal bag in box. Ecco Piero, ma la qualità, perché in Italia si discute molto di questo, cioè esiste il brick e il bag in box, però la qualità, diciamo, mediamente è molto discutibile. La qualità, no, non puoi avere compromessi con la qualità nel bag in box in Australia, proprio perché per la storia che ha questo tipo di contenitore, per la familiarità che ha il consumatore, ma soprattutto perché è il contenitore perfetto per lo stile di vita australiano, è il contenitore per il vino all'aria aperta, è il contenitore trasportabile per i picnic, per il barbecue, è anche quello con cui puoi raffreddare il vino nella maniera più semplice, spogliando dal cartone e immergendo la sacca direttamente in un frigo portatile pieno di ghiaccio. Quindi qui è ancora una fetta importante, probabilmente siamo intorno alla metà del mercato. Bene. Tutte le qualità possibili rappresentate. Bene, sentiamo Andrea Grignaffini, che è direttore creativo della rivista Spirito di Vino. Voglio chiedere a Andrea se ha mai fatto una degustazione di vini in brick o in bag in box. Buongiorno Andrea. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Sì, giustamente l'ho fatta sia per curiosità e sia per tempo fa anche per stimolo dell'editore. E dunque, dal punto di vista, diciamo così, tecnico, abbiamo sentito alcune cose e onestamente a livello soprattutto di naso così piuttosto precise, cioè senza particolari difetti. In bocca, insomma, sono vini di non grande spunto, diciamo così. Quindi prodotti proprio tarati, secondo me, su un target, diciamo così, molto preciso. Ormai poi, insomma, la prassi enologica è diventata, secondo me, di alto livello in Italia e nel mondo, quindi creare disinfettati è veramente, secondo me, un'impresa. Quindi sono vini, chiamiamoli così, appena sufficienti. Poi sull'utilità e sul rapporto con l'ecologia io qualche perplessità ce l'ho anche qua. Ho capito. Rimani con noi comunque, sentiamo il radioascoltatore Vito dalla provincia di Sondrio. Buongiorno Vito. Sì, buongiorno a lei. Io ho la fortuna di essere un iscritto all'Associazione Nazionale Assaggiatore di Vino, ho fatto un percorso formativo del vino e da questo momento la mia vita è cambiata, perché l'approccio verso il vino, ma anche verso la vita, è molto più profondo, molto più attento ai particolari e meno alla banalità che evidenziano probabilmente i vini in brico. La differenza sostanziale è che il vino in brico, a parer mio, è un alimento, quindi un apportatore di calorie all'interno di un'alimentazione che può essere assolutamente valida. Una citazione bellissima è di Barrico e dell'aspetto dei barbari che surfano su una, sulla superficialità dei vini di Mondavi. Mentre Barrico diceva: sfidiamo qualcuno a, a bersi un bel barbaresco con un brasato e poi vediamo dove i barbari riescono ad andare in profondità e percepire queste cose che sono assolutamente grazie, importanti. Grazie a Vito. Ora abbiamo con noi Alessandro Masetti, che è Category Manager reparto liquidi Coop Italia. Buongiorno, buongiorno Masetti. Buongiorno a tutti. A lei voglio chiedere, chi è che compra il vino in brick e in bag in box, diciamo nella grande distribuzione, che è l'identikit? Ma allora, per fortuna sono ancora tanti, nel senso che comunque è un mercato, quello del vino in generale, dai consumi che sono via via calanti, diciamo che c'è comunque la tendenza a dire consumo meno ma provo a consumare meglio. Però nonostante questo, diciamo che i vini, i cosiddetti vini da tavola, quindi vini in brick oppure i vini in grandi bottiglioni, comunque continuano a fare la maggior parte dei volumi del mercato nella grande distribuzione. Io ho un dato, non so se lei me lo può confermare, un po' vecchio, comunque diceva 64% vetro e 32% brico bag in box. Sì, sì, i dati sono ancora, diciamo così, sì, magari un po' vecchiotto, nel senso che comunque c'è sicuramente un'inversione di tendenza. Il mercato del brick complessivamente sta tenendo proprio in termini di volumi, proprio perché chi consuma magari vetro sta andando sempre di più verso un consumo di bottiglia di vetro di qualità, mentre chi continua a consumare il vino in brick lo fa perché comunque riesce a acquistare un vino comunque di una qualità percepita, perché i volumi sono veramente tanti. Senta, una radioascoltatrice prima ci ha chiesto se sono i giovani che comprano vino in brick. No, non necessariamente, non esiste una fascia di età particolare di chi acquista vino in brick. Esiste, diciamo così, chi acquista vino in brick anche per farne appunto un utilizzo, diciamo, in cucina, e chi l'acquista come, diciamo così, anche per la preparazione di alimenti, ci mancherebbe. Ma esiste anche chi lo beve tutti i giorni, chi vuole bere un vino di qualità diversa sicuramente, perché io credo che sia sbagliato, sentivo una trasmissione, credo che sia sbagliato fondamentalmente confrontare un vino in brick con un vino in vetro. Rispondono a due funzionalità diverse, qui stiamo parlando di due mercati molto diversi, e quindi lo stesso consumatore che magari si compra il vino, lo stesso giovane o lo stesso quarantenne che si vuole acquistare una bottiglia di vino in vetro per determinate funzionalità, perché lo vuole accompagnare a un determinato cibo, in altre occasioni si compra il vino in brick perché comunque è un vino che beve tutti i giorni, riesce a garantire comunque un certo elemento di freschezza, perché comunque parliamo di rotazioni Italia, quindi particolarmente importante. Quindi comunque il vino che viene imbottigliato è comunque abbastanza fresco, abbastanza giovane, e semplicemente riesce ad acquistarlo, ad accompagnarlo a cibi diversi, e quindi comunque a rispondere anche a un'esigenza di convenienza, di qualità e di un prodotto che comunque ha una qualità costante garantita, garantita sia dalla produzione ma anche, diciamo così, dalla tecnologia produttiva. Bene, grazie Alessandro Masetti. Purtroppo io volevo far intervenire ancora Tantine Grignafini e anche i radioascoltatori, che sono tanti in linea, e abbiamo finito, diciamo che gli interventi sono stati veramente tanti, sia sms che telefonate, quindi vuol dire che è un argomento che è sentito. Bene, siamo giunti in conclusione, allora io ringrazio in regia Peter Bescapè, in redazione Anita Panizza e Viola Bottoni, vi do appuntamento con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Buona settimana a tutti.